intanto benvenute, benvenuti e soprattutto grazie per essere venuti da, da altri luoghi, dalla Emilia Romagna, da Reggio Emilia, in particolare Bologna, a Luca e Enrico, che fanno parte di Max 6, cooperativa finanziaria di mutua autogestione, e a Cecilia, eccola lì, che viene da Bologna Arvaia, comunità a sostegno dell'agricoltura. Questo è il primo incontro di una serie di, diciamo, incontri preparatori, una prima autoformazione che come comunità di Mondeggi ci vogliamo dare per prepararci ulteriormente, oltre al lavoro di progettazione che è già stato fatto tra varie associazioni, persone che partecipano al progetto e alla comunità di Mondeggi, per prepararci a quella che sarà la prossima fase, ovvero il rapporto con la città metropolitana, la coprogettazione e quello che verrà dopo, sperando che questo percorso abbia un esito positivo. Quindi quello che verrà dopo significa, dopo il periodo di transizione transitorio di 3 anni, che dovrebbe cominciare con la cantierizzazione verso l'estate, probabilmente a luglio, ma ancora non so se le date sono proprio precise, magari Roberto ci dirà qualcosa in merito, e che si concluderà nel 2026, quando appunto dovremo incominciare noi, se andrà il percorso come speriamo, noi come comunità a gestire, a co-gestire insieme questo bene comune, che vorremmo mantenere un bene comune con le forme organizzative e di co-decisione che ci sono state finora, e soprattutto dargli questo senso di comunità che ruota intorno a una visione agroecologica del territorio, che è ben radicata con sia il territorio dove è, quindi sopra l'Altella, nella zona sopra la Via Ripoli, ma anche collegata con la città di Firenze, con le associazioni, le comunità, i comitati, insomma tutto quello che è vivo e che rende viva questa città. E detto questo, forse Francesca si può dire un po' il percorso che abbiamo immaginato finora. Sì. Allora, il percorso formativo di autoformazione nasce dopo un po' di mesi di lavoro, dei gruppi di lavoro in cui la comunità allargata di Mondeggi si è articolata per rispondere appunto alla sollecitazione di farsi trovare pronti a questa progettazione grande che il mondo la chiama a fare, e la comunità ha deciso di dividersi in gruppi di lavoro per provare a proporre. A un certo punto di questo lavoro condiviso, che veniva ricondiviso volta a volta in assemblea, si è reso abbastanza manifesta l'evidenza che era tutto esageratamente complesso. In quel momento lì ci è venuta l'idea di fare dell'autoformazione, perché forse era veramente troppa roba da digerire, da gestire per delle persone non strettamente formate sui campi su cui siamo chiamati a deliberare, sia come mondeggini della prima ora, sia come acquisiti, come la sottoscritta. E da lì appunto è nata l'idea di fare degli incontri con gli esperti. Con un incontro con gli esperti come quello che comincia oggi, poi è una sequenza di 5 incontri, dopo andiamo nel dettaglio, l'ambizione non è quella di diventare esperti, l'ambizione è quella di imparare a fare le domande agli esperti, mi verrebbe da dire, imparare a farsi le domande, perché tanto poi via via che si va avanti nel prendere decisioni banalmente su come ci vogliamo configurare, associare, che tipi di rapporto di lavoro vogliamo stabilire all'interno della Mondeggi che immaginiamo, quanto del nostro tempo vogliamo metterci e quante delle risorse che ci servono per vivere vogliamo prendere da lì dentro come individui e come micro collettivi e come collettivo, Ognuna di queste domande è talmente complessa che non si esaurisce certo in un incontro, però ognuna di queste domande ha degli esperti a cui farle. Quindi le missioni, la missione di questi incontri è imparare a farsi le domande giuste, imparare a chi si fanno, posto che ci deve essere un rapporto di fiducia fra noi e l'esperto a cui ci si rivolge. Questa roba quindi non si esaurisce nell'incontro di oggi. Innanzitutto ci teniamo a dire che stiamo registrando questi incontri perché speriamo che chi non ha potuto essere presente oggi e chi ha voglia di approfondire sfrutterà il fatto che c'è un audio da ascoltare mentre magari si fa altro, mentre si pota o mentre si tagliano cose, come nel caso della sottoscritta. Ci sarà un audio che ci sembrava il modo più snello per far circolare le informazioni, si presta ad approfondimento. Successivi lo metteremo a disposizione sia sui canali di Solidarius, che risulta titolare dell'iniziativa di oggi, poi magari spieghiamo meglio in dettaglio perché, sia sui canali di Mondeggi. Comunque lo faremo circolare il meglio possibile. Si spera che a un certo punto vengano domande. Quindi, nella nostra idea, questo percorso di autoformazione deve finire con una raffica di domande da fare agli esperti a cui abbiamo chiesto di prestarsi sia a questi incontri sia a una sessione finale di domande e risposte che si spera, si auspica verranno. Innanzitutto questo percorso di incontri che comincia oggi, poi faremo un incontro mediamente ogni 3 settimane su temi diversi. Il prossimo per esempio è il 10 marzo e verte sui temi del diritto del lavoro e delle forme di collaborazione, di assunzione possibili all'interno di un'ipotetica realtà di agroecologia. Sono resi possibili dal supporto di Europe Direct, che è un ufficio, un'articolazione del Comune di Firenze, e che era presentato qui dalla Diletta Gasparo, e che si pone l'obiettivo di divulgare, diciamo, le possibilità offerte dai fondi pubblici europei, si spera fondi pubblici usati virtuosamente, la divulgazione di quello che si può fare, dei progetti nati in seno ai finanziamenti europei, fa parte della missione del Comune e di questo ufficio. Senza il loro supporto non sarebbe stato possibile, più o meno, forse l'avremmo fatto, ma con meno risonanze, con meno risorse, fare questi incontri in città. L'abbiamo chiamato Mondeggi va in città perché Mondeggi si presta a farsi contaminare evidentemente dalla città, non solo a rimanere quella che era. C'è il murale bellissimo che ci accoglie quando arriviamo a Cuculia, che racconta proprio questo, di una Mondeggi che fa da esempio per una vita ideale, però poi ha la pretesa di portare questa vita ideale in città. Nel nostro piccolissimo questa serie di incontri ambiva esattamente a quello. Quindi l'invito è far circolare l'audio fra le persone che pensate possano essere interessate, farci più domande, anche domande di materiali a supporto, slide, qualunque cosa pensate possa essere utile. Non è frontale qui la formazione, qui la si fa insieme, anche appunto continuando a chiedere nei giorni successivi. Far circolare l'audio, invitare gli amici, venire il 10 di marzo all'incontro con un esperto che viene da Roma, che ha attraversato in realtà paragonabili alla nostra per certi aspetti e ha competenze di diritto del lavoro. Poi l'incontro dopo ancora è il 1° di aprile, che è un sabato ed è con 2 esperti di Legacoop, quindi si dovrebbe parlare delle forme cooperative possibili nelle comunità agricole. Poi ci sono 2 incontri successivi, sempre a cadenza di 3 settimane, che fisseremo e comunicheremo sui soliti canali, e abbiamo dei possibili temi, però vogliamo un pochino vedere se condensarli o se lasciare più spazio alle domande e risposte che si diceva prima, in base alle risposte che otteniamo oggi. L'ultimo ringraziamento io lo farei all'Arci, al Circolo Arci fra i lavoratori di Porta al Prato in particolare, perché supporta con le sue risorse questa parte di divulgazione, oltre che tutta l'operazione di Mondeggi 2026. Jason. Ah, Solidarius non ho detto però. Sì. Allora, Solidarius è una delle diverse organizzazioni e associazioni che fanno parte del comitato degli amici di Mondeggi, e ora contribuisce con tante altre appunto alla progettazione che si sta facendo. Mondeggi si è costituita in APS recentemente, più recentemente di quando è uscito il bando, e quindi diciamo che Solidarius si è prestata a servizio un po' della comunità. Ma l'idea, oltre a darci l'opportunità di confrontarci, di sentire altre esperienze, è anche quella di far conoscere Mondeggi alla città, ad altre realtà che esistono nella città. Per questo gireremo, non staremo sempre qui, ma gireremo i vari quartieri e inviteremo altre, appunto, altri collettivi, altre realtà che esistono a Firenze. In questo modo speriamo di mescolare ancora di più e di creare ancora più interesse intorno a questo enorme progetto, complessissimo, che abbiamo davanti e che appunto adesso ha una nuova fase, un nuovo momento. Chiederei a Roberto, se gli va, di dire due parole su che servono anche per inquadrare un po' quello che andiamo a discutere oggi. Il tema di oggi è quello di come si rende, diciamo, possibile, sostenibile un progetto di queste dimensioni con tante complessità diverse e come si crea una pianificazione insieme, perché non è una realtà singola che si mette a lavorare in questo senso, ma è l'integrazione di tante esperienze diverse. Quindi questo è un aspetto peculiare che abbiamo. E per questo l'esperienza che ci porteranno da Maxey e da Arbaia può essere sicuramente un arricchimento forte.